Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Marco Dimitri, io comincerei da un particolare che mi ha colpito facendo il suo numero. Un numero che finisce con 666. Sì. Sono cifre che hanno un significato ben preciso. È il numero di Satana. In Inghilterra colgono le targhe col 666 finale perché dice che portano sfortuna. Penso che sia casuale, è un numero che ho da anni. Il vero significato del 666 è l'uomo che pensa di se stesso Dio, ed è la cabala greca. È una grande operazione di marketing, però, se non fosse casuale. Direi di sì. Condivide? Condivido. Un numero di telefono con 36, le fiamme rosse dell'inferno tatuate su un braccio, la stella a 5 punte e il profilo di un lupo su un altro. Eccolo il capo dei bambini di Satana, Marco Dimitri, la bestia 666, accusato di aver trascinato la setta che guidava in gironi di sacrifici umani, occultamenti di cadavere, violenze sessuali e su minori. Da Bologna la sua associazione raggiunse centinaia di ragazzi in tutta Italia, diventando l'incubo collettivo delle famiglie. Ma dopo 3 inchieste, 400 giorni di carcere e processi conclusi in tempi record, arrivarono le assoluzioni e il risarcimento dello Stato, 100.000 euro per l'ingiusta detenzione. Intorno ai bambini di Satana ruota ancora oggi la vita di Marco Dimitri. Noi ricordiamo sempre che c'è stata una manovra giudiziaria. Quindi diciamo che la sua vita anche oggi ruota intorno a tutto quello che è stato il caso giudiziario dei bambini di Satana, giusto? Ruota attorno anche a informare informazioni di questo caso, perché non deve passare inosservato. È successo in Italia, non siamo negli Stati Uniti, una volta succedeva solo lì, si chiamava SRA, adesso sta succedendo in Italia, sarebbe 7 anni che dietro l'abuso. Sta succedendo anche in Italia e non solo a noi. La sua associazione è ancora in vita? Esistiamo da 25 anni e semplicemente forniamo informazioni, quindi sulla cultura che dovrebbe essere il satanismo, che è quasi paritetica all'umanesimo. Sia pur con le dovute differenze concretizzate in 2 iter processuali dagli opposti esiti, da una parte l'assoluzione, dall'altra degli ergastoli, i bambini di Satana fecero scoprire allora l'esistenza di anfratti oscuri ritornati drammaticamente d'attualità con le scoperte delle bestie di Satana e i loro orrori, anche se Dimitri contesta in ogni modo la ricostruzione in chiave satanista degli omicidi del Baresotto. Un colpo di badile in testa non mi sembra un rituale supportato da tanta filosofia. Secondo me, io torno a ripetere che purtroppo è un omicidio consumato in un ambiente più drammatico che è quello della droga, quello del disagio sociale, più che della cultura satanista. Cioè, non vedo quale tipo di cultura potessero avere, non hanno dimostrato, hanno preso anche le distanze dal satanismo. Il loro gruppo si chiamava così perché era una band musicale, questo è quello che dicono loro. Lei è stato contattato da qualcuno dei genitori delle vittime? No, ma di questo tipo no, anche perché non vedo cosa ci sia di satanico attorno a quello che è successo. Ma non ha mai pensato che ci sarebbero potute essere delle persone che concretamente poi arrivavano a forme estreme? E questo è avvenuto, come abbiamo visto. Sì, però mica li conosco queste persone. Si sono autoalimentate, che hanno avuto neanche una base culturale, hanno avuto dei grandi problemi, si sono auto-influenzati uno con l'altro. Lei dice sono 2 realtà diverse, però che in qualche modo, sia pur forse soltanto nel nome, hanno un elemento in comune, forse... Esatto, sì, testi di Satana, bambini di Satana. Può essere che il nome sia stato copiato. E quindi forse in questo ci può essere una forma di suggestione? No, perché non l'ho mai detto, ma state la gente. Mai. Immagino che l'abbiate anche commentato, no? I fatti di Varese. Ma in parte, perché quello che noi sappiamo è che loro avevano un gruppo musicale che si chiamava Bestia di Satana, non una setta, un'associazione. In qualche modo l'ambiente di riferimento, il culto di riferimento è lo stesso. Non so chi ha mai provato a prendere, non so, un ansiolitico e magari bere qualcosa dietro. Si annulla ogni forma di percezione, di contatto diretto con la realtà, per cui una persona magari compie dei reati e Quindi lei dice la vera colpa è quella delle droghe? Sì, dell'uso delle droghe. Nel vostro gruppo sono mai circolate le droghe? Se bevo la domanda, no, dipende cosa intendiamo per droghe, comunque no. No, me ne sono guardato bene perché sarei un elemento di attacco esterno, per cui... Parla delle droghe, ma ribadisce e ripete in ogni inciso il capo dei Bambini di Satana la sua distanza dal gruppo che nel Varesotto ha compiuto macabri omicidi e cerca Dimitri di tenere fuori dagli orrori anche quel comune riferimento satanista presente già nel nome. Ma del fatto che gli omicidi di Fabio Tollis e Chiara Marino siano maturati in questo ambito sono sicuri i genitori delle vittime e arredi satanici sono stati trovati nelle perquisizioni. Pesantissime, dai sacrifici umani alla licantropia, dall'occultamento di cadavere all'associazione mafiosa, sono state anche le accuse contestate al suo gruppo, al gruppo di Marco Dimitri, cui fu imputato anche l'abuso su un bimbo di 3 anni, rinchiuso in una bara, e la violenza sessuale su una minorenne che divenne la super testimone e denunciò di essere stata drogata con un caffè narcotico. Ripercorre le fasi del suo processo, Dimitri, e passa al contrattacco contro di noi, dice: ci fu un complotto. Dimitri, il suo fu un grande caso giudiziario chiuso con una assoluzione e con l'aggiunta di un risarcimento. Ha avuto questo risarcimento? Sì, ho avuto questo risarcimento, però è chiaro che una parte della tua vita è stata lesa da quello che io non considero un errore, io considero una montatura, che ho elementi in me che mi fanno supporre quello. E quindi un complotto, secondo lei, di chi? È un complotto della Chiesa, è chiaro. Ecco, al centro delle accuse rivolte a lei e ad altri due suoi coimputati c'erano anche, tra l'altro, le dichiarazioni di una ragazza, di una sedicenne. Ha lanciato pesanti accuse nei suoi confronti. Certo, questa ragazza poi conosceva particolari... miei, addirittura fisici, un piercing, cioè conosceva delle cose che non poteva conoscere e quindi l'unico posto dove poteva aver appreso molte informazioni era un ambiente amichevole, l'unico ambiente amichevole che gli era stato costruito attorno, è stato, praticamente era imboccata, conosceva talmente tante cose però le conosceva sempre dopo che leggeva degli atti o dopo che appariva sul giornale un determinato particolare. Era ben precisa l'accusa che rivolgeva ed era un'accusa di violenza sessuale? Non era precisa. Lei dice di essersi un giorno della sua vita svegliata o in casa mia o in campagna o in un posto imprecisato e con della gente che poi addirittura non era presente in Italia e ha messo di mezzo anche il suo ragazzo, perché non vedo una violenza sessuale posta in essere dal proprio ragazzo, mi sembra abbastanza assurda, però ancora più assurda se una persona non c'è. Addirittura lei era stata fermata a Rimini dai carabinieri di notte in macchina con il suo ragazzo che erano passati col rosso, quindi come poteva essere successo uno stupro a Bologna? Quindi era matematicamente impossibile fosse successo. A questo si aggiunse anche un particolare inquietante riferito di una messa nera in un cimitero con un bimbo di 2 anni violato. Sì, dai, con un cadavere di nome Margherita, vero? Con un cadavere di nome Margherita, vestito di bianco. Io potevo solamente rabbrividire davanti a queste accuse cretine, perché sono accuse cretine, perché non può esistere un cadavere vestito di bianco, ben conservato in agosto. Penso voi fatti giornalisti avete visto magari un cadavere in pieno agosto, cosa succede? Non ci si sta a 100 metri di distanza. Vestito di bianco mi sembra ancora più assurdo, poi addirittura mi sembra ancora più assurdo. Se c'è un cadavere violato c'è una denuncia di scomparsa di cadavere, ci deve essere un riscontro oggettivo. I carabinieri sono stati sbintagliati in tutta l'Emilia Romagna e non hanno mai trovato niente. Niente, neanche una tromba violata, niente. Quindi è palese che sono accuse, non sono errori giudiziari, sono accuse fatte a spese di cittadini, con i soldi dei cittadini per contrastare le idee dei cittadini, quindi la libertà dei cittadini. Un'insistente tosse spezza il racconto dell'ex bestia 666. Chiaramente però si sentono le sue parole quando ripete che non appartengono alla loro cultura, messe nere, violazioni di sepolcri e cerimonie simili, ma di almeno un'incursione nei cimiteri era stato accusato già anni prima Dimitri e almeno un episodio alla fine lo ammette lui stesso. cos'è che esattamente era in quel momento l'Associazione dei Bambini di Satana? L'associazione è sempre stata un'associazione di studio e di informazione, è sempre stata presente a memoria storica in televisione, sui giornali, quindi se fossimo un gruppo esageratamente criminale, certo non ci faremmo vedere in televisione, sui giornali, e tantomeno ci nasconderemo dietro l'emblema del satanismo, i professionali satanisti, perché non abbiamo nulla da nascondere. Ma concretamente il vostro professarsi satanisti, almeno all'epoca, in che cosa concretamente è così estrinseca? Noi cerchiamo di esplodere invece che di implodere, nel senso cerchiamo di muoversi verso l'esterno, quindi internamente, è chiaro, come ogni associazione, riunioni, ci sono elaborazioni del pensiero. Riunioni che avvengono anche attraverso evocazioni? Sì, sì, abbiamo fatto anche quelle, però non lo nego, ne abbiamo fatte e abbiamo sperimentato. Evocazioni anche nei cimiteri? No, perché non avrebbe senso. Ecco, però lei già nell'89 fu accusato di incursioni sataniste nei cimiteri della Romagna. Sì, quello è stato bellissimo, perché è stata la prima accusa che ebbi, ed è un carabiniere infiltrato, amico di una mia ex, una ragazza che avevo lasciato. Sì, fece queste dichiarazioni, però non venne tutto archiviato perché non c'era nessun riscontro anche lì. Però eravate stati in dei cimiteri? No, dentro dei cimiteri no. Cioè, dentro dei cimiteri a compiere dei riti. Lei disse che tutto ciò che avevate fatto era stato entrare in un cimitero per fare un'evocazione. Aspetta, stiamo parlando di? Dei fatti dell'89. Dell'89, sì, sì, sì, è vero. Noi abbiamo lasciato una stella dentro un cimitero, sì. E fu un'evocazione, sì, sì, è vero. L'abbiamo fatta in due, e quello che sentivamo bussare dalla tomba siamo scappati. Sì, sì, sì, quello l'abbiamo fatto, sì. In Romagna? In Romagna, sì, una sera. Abbiamo tracciato dentro, non dove c'erano le tombe, nel piazzale, abbiamo tracciato una stella e abbiamo provato a evocare da dentro questa stella e si sentiva bussare da dentro una tomba e noi siamo scappati. Che cos'era quella stella? Che significato aveva? Le cinque punte, quindi sarebbe la testa, le braccia, le gambe, cioè l'essere umano, la stella. Una stella a cinque punte come quella che lei ha ancora tatuata? Sì, c'è la stella a cinque punte tatuata. Sì, lo so che fa strano, ho dei tatuaggi, però... Ne ha anche degli altri di tatuaggi, se non ricordo male. Sì, sulle braccia, sì. Tipo? Dunque, tipo un lupo con un castello, poi ho il Baphomet, ho un demone nascosto dietro delle fiamme verdi. Questi i tatuaggi della bestia 666, Marco Dimitri, già capo dei Bambini di Satana, che come sentiremo nella seconda parte sono ancora tanti, sparsi in tutto il paese, soprattutto al nord, e con loro Dimitri conserva i contatti.